sono le 7 spaccate dagli studi di Rock FM, siti in via Locatelli 1, 20, 124 Milano. C'è l'Ariele in compagnia del fedele Spadino, pronti come non mai per la 31esima puntata di Pane, Burro e Rock and Roll. E abbiamo una sigla, e beh, senza quella non ci muoviamo. Nuova settimana, è dura, ma insieme ce la faremo! Pane, burro e rock and roll. Galvanizzo l'ascolto, Spadino. La tua colazione rock. La migliore in circolazione. Pane, burro e rock and roll. È uno sporco lavoro, ma qualcuno doveva pur farlo. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Una buona abitudine quella di ascoltare ogni giorno alla mattina Rock FM dalle 7 alle 9, la colazione servita dalla squadra. La colazione è fatta da pane, burro e rock and roll. E la nostra panna montata si chiama Roberto Friccantoni, che anche quest'oggi parteciperà a questa trasmissione. Nuova settimana, è sempre dura riniziare la settimana, soprattutto dopo un lungo weekend di rock and roll, ma ripeto, insieme ce la faremo. Tra l'altro vi avviso da subito che quest'oggi partiranno uno sbrodolio di nuove... Si dice sbrodolio? No, mi sa di no. Fa niente, l'abbiamo coniato noi. Parte uno sbrodolio di nuove rubriche per tenervi belli svegli a quest'ora della giornata. Vi ricordo subito le nostre coordinate, anticipiamo tutto, sennò poi ci si incastra. Un numero di SMS che è il 335-100-7777 e la casella di posta elettronica che è ariel@radiorockfm.com. Troppe le cose da fare anche quest'oggi, chissà se ce la faremo mai. Mo, lo scopriremo insieme. Uè! Ain't Whitesnake che si lamentano. Non c'è amore nel cuore della città. E noi ci rispondiamo con un classico gesto dell'ombrello, visto che qui dal cuore di Milano siamo stracolmi di amore. Siamo pronti a catapultarvelo in testa fino alle 9 del mattino. La mia parte di trasmissione che preferisco, questa all'inizio, quando c'è ancora il lampione crepuscolare che veglia sopra di noi e quando arrivano i primi messaggi, che solitamente sono di quelli messi peggio, insomma, anche fisicamente, perché sono quelli già svegli da un tot, che hanno già un telefono cellulare acceso e che già ci contattano. Dai primi messaggi di quest'oggi, ragazzi, è dura, perché sembra ci siano brogli per quanto riguarda le patenti da vero rocker. Essendo l'argomento abbastanza delicato, procrastinerò la cosa tra poco. Applauso, grazie per procrastinerò, detta in maniera precisa, anche perché ho un altro grosso problema da affrontare. Così, a inizio puntata, a inizio settimana, è lunedì. Cosa succede il lunedì? Solitamente il nostro amico tabaccaio ci fa sapere se i numeri del lotto giocati nella speranza di poter comprare un ripetitore talmente gigante da poter mandare il segnale di Rock FM in tutto il mondo, ci contatta per farci sapere, con grossissima delusione, che i numeri non sono usciti. Sto iniziando a preoccuparmi, perché è un paio di settimane che le mail di Carlo, cioè finché lo sentiamo in diretta per darci i numeri, è abbastanza normale. È quando arrivano le mail che la situazione sembra un po' drammatica. Per farvi capire, andrò a leggervela, questa lettera elettronica che arriva ad ariel@radiorockfm.com di un nostro amico che vuole darci una mano ogni settimana, ma fondamentalmente non ce la fa. Carlo, però, detto da subito, non prenderla così sempre, sennò va a finire male. Scrive così: questa mattina, nel cielo della notte, se guardi verso nord-ovest, vedi un punto molto luminoso, oltre al lampione crepuscolare. Dovete girarvi verso la stazione centrale. È, presumo, un pianeta. Ormai non ci resta che sperare che da lassù qualcuno ci guardi, visto che qua già nessuno ci ascolta. E forse fanno bene. Però noi perseveriamo. Bravo Carlo, è questo lo spirito col quale devi affrontare i numeri del lotto che non escono. L'avevamo deciso a priori, no? Erano numeri rock, non dovevano uscire. Non pigliarla male, se no ci getti nello sconforto a inizio trasmissione, che va malissimo. Si chiamano Radiohead. Dopo questa gustosa Karma Police, perché non spararci un almanacco del giorno? Oh, Attenti amici là fuori, le ferrovie dello Stato a volte riservano grosse sorprese, pulci sui vagoni e a volte anche Roberto Fricantoni, con rima! Vagoni Fricantoni. Buona che giornata, ti sputa, maestro. Che ti sputa sui calzoni. No, ah, esatto, si becchi questa, DJ grazie. Ariele. Buongiorno, uno splendido lunedì 15 ottobre a tutti i radioascoltatori e perché no, soprattutto alle radioascoltatrici. È un piacere vederla così pimpante, pronto per l'almanacco del giorno che fu. Vai Spadino! No, cosa? No, si riprenda, maestro. La voglio pimpante. Oggi partiamo con una notiziona che le piace un sacco. Era il 15 di ottobre del 1917. Accidenti, siamo in piena prima guerra mondiale. Ci troviamo fuori Parigi a Vincennes, quando la ballerina olandese Mata Hari, la famosa, la spia delle spie, purtroppo, sì, viene beccata, viene giustiziata da un plotone di esecuzione, appunto per aver fatto la spia a favore della Germania. Accidenti, Mata Hari era una collaborazionista. Tutta la nostra simpatia perché era una grande spia, ma ahimè, tutto il nostro rimprovero per essere una collaborazionista del regime nazista. E nell'almanacco di quest'oggi ci spostiamo dalla Prima Guerra Mondiale alla Guerra Fredda. 1962, era proprio il 15 di ottobre che iniziava la crisi che si ricorda come crisi dei missili di Cuba. Ma sì, infatti laggiù si rischiò una guerra mondiale, DJ Ariele. Sì. Fu un fatto gravissimo che poi il presidente Kennedy dovette smentire, la provocazione americana nei confronti di Fidel Castro e di Cuba. La crisi durerà per 13 giorni a partire dal 15 di ottobre e tutto il mondo intero stette in questi giorni sotto la minaccia di una guerra atomica. Tutte le navi nucleari si spostarono proprio in quell'area, russi e americani gli uni di fronte agli altri, pensi, colpo di scena, eh? Chiudiamo allora con qualcosa di meglio. Era il 1990, era il 15 di ottobre quando il leader dell'Unione Sovietica, Mikhail Gorbachev, riceve il premio Nobel per la pace per i suoi sforzi nello smorzare la guerra fredda. Ma che rabbia! Cosa dice? Anche lui un premio Nobel? Sì, un po' sì. Che nervi! Esatto. Era anche più brutto di lei, forse. Ah, questo certamente lo devono dare anche a Fricantoni, sì, un Nobel! Maestro, lo avrà! Ci conto! 1, 2, 3, 4, 5... E beh, che c'è? Where you do to me? Don't get Got Lucky Baby, Tom Petty e i suoi Heartbreakers in questa 31esima puntata di Pane, Burro e Rock and Roll. Salutato allora anche il maestro Roberto Fricantoni. Non mi resta che correre velocemente nella scaletta di quest'oggi, che vi ho avvisato ricca di sorprese. La redazione lavora alacremente anche nel weekend, qui non ci si ferma mai. Nella prossima mezz'ora mi dicono che potremmo finalmente contattare uno dei vari gruppi d'ascolto che spesso e volentieri ci segnalano la loro presenza via SMS, ovvero gli i piccolini, i bambini all'ascolto di Pane, Burro e Rock and Roll, che cresceranno malissimo ovviamente ascoltandoci, non per colpa loro ma per colpa nostra. Il gruppo Genitori e Figli verso la Scuola, chi lo sa se riusciremo a rappresentarlo nella puntata di quest'oggi. Purtroppo io vi avviso, invece è doveroso farlo, che l'omino che fa jogging fino alle 7 e 21 minuti precisi non si è ancora fatto vedere. Però ragazzi, si avvicina l'inverno, insomma fa un po' più fresco, io non vorrei dirvelo, ma secondo me non si presenta più quello lì. Ma speriamo, viviamo nella speranza anche che l'omino che fa jogging torni. Si chiamano Blackfoot, in partenza il treno dalla stazione di Rock FM, il brano si intitola Train Train. Dobbiamo fare le cartoline postali, ragazzi, se no non finiamo più. Quelle continuano imperterrite ad arrivare e lo abbiamo promesso ai nostri amici e alle nostre amiche, le leggeremo tutte! Roberto Fricantoni, le dirò la verità. Me la dica. Forse dell'almanacco un giorno mi stuferò. Si stuferà dell'almanacco? Non credo. Forse un giorno mi stuferò del test attitudinale. Ma questo non penso proprio. Forse un giorno mi stuferò anche di lei. No, No, questo non potrà mai accadere, glielo impedirò. Certo sono che mai mi stuferò delle cartoline postali che sono arrivate a Rock FM. Straordinarie. Andiamo al reparto immagini. Molti di voi alla richiesta fateci arrivare una cartolina rock hanno pensato di spedircela con sopra delle band. Siamo nel reparto band quest'oggi. Partiamo dagli Atroci. Gli Atroci. Che lei conosce, tra l'altro. Sì, gruppo demenziale di metallo, metallari demenziali. Sono in sette, descriverli tutti sarebbe un po' troppo, sono messi malino. Sì, ci sono molti riferimenti ai Kiss, allo sì. Splatter. A Marilyn Manson. A Marilyn Manson. C'è un signore che ha un braccio in mano di sì, un altro. Sì, vero. Una, vogliamo dire una mannaia una gigante. Una mannaia, sì. Roba, c'è insomma, Halloween. Esattamente. Diciamo immaginario metallo splatter. Sì. Vediamo per Ariele, Roberto Friccantoni, a noi sembra abbastanza metal. Saluti da Angelo e Fabio da Imola, che tra l'altro segnano anche i loro numeri di cellulare. Forse vogliono che li contattiamo, li, sì, li chiameremo per ringraziarli. Vogliono essere perseguitati e quindi li ringrazieremo di persona. Grazie per la cartolina degli Atroci. Scusi, e passiamo. Scusi, ma qua nel retro c'è una specie di epitaffio che non si riesce a leggere. Anche perché è scritto al contrario, scritto per essere contrario, veramente metal, ed è anche un filo lungo e dovremmo ringraziare altri due radioascoltatori. E allora procediamo. Che sono andati su ben altra band, perché dagli Atroci passiamo a questi quattro in piedi su un campo di grano decisamente fiorito. Siamo sicuramente negli anni 70. Chi sono questi quattro? Ma non saprei, al momento non ricordo. Ma sono i Beatles. Ah, ho avuto un'amnesia, mi scusi. Guardilo qua, George Harrison, Paul McCartney, John Lennon, Super Barbone e Ringo Starr. Questo è il periodo, secondo me, di I Am The Warlords. Sì, fine anni 60. Esattamente. Seconda metà anni 60. Liverpool 060807, dalla città più rock d'Inghilterra alla città più rock d'Italia. Un solo grido ci unisce, Poscar Will Never Die. Da due grandi rocker, un saluto e un rutto alla birra, Luca e Gabriele. Perché rovinare tutto con un rutto alla birra? Beh, insomma, c'era, perché c'era stile in questa cartolina. Infatti, ma un colpo di roccheggiamento fuori tema o comunque esagerato. Segnaliamo ci sta, che ci anche sta questa cartolina da Liverpool è una delle papabili vincitrici della cartolina più rock di tutte. Sì, sì, sì, perché di cartoline dei Beatles se ne sono viste a iosa centinaia, ma che dico centinaia? Migliaia, ma che dico migliaia, decine, eccolo. Ma così non si era forse mai vista. Dai Beatles passiamo ad un altro signore del rock and roll, Mr. Jimi Hendrix. La cartolina che ci è stata spedita è la cartolina celebrativa del meeting che si chiama Hendrixiana, undicesima edizione, 1-2-3 giugno 2007, si tiene a Saturnia, così recita la scritta che campeggia sopra Saturnia, a Jimi Hendrix. Nel centro Italia, grande luogo di villeggiatura, di vacanze, di terme. Ci sono delle terme straordinarie. Welcome to the Electric Church, benvenuti nella chiesa elettrica. Chi ce la manda? Allora, vediamo un po' cosa scrivono. Un saluto dagli irriducibili seguaci del grande maestro, per sempre vivo nel nostro cuore, Jimmy Forever. Pensavo le dessero del morto a lei quando ho letto maestro. Fortuna io pensavo, che si riferivano a Jimmy. Pensavo Hendrix. Poi di leggere Ariel, no, tra esatto, parentesi. Roberto e gli amici del circolo italiano, Jimmy Hendrix. Grazie ragazzi! Jimi Hendrix a pacchi. Mi hanno chiesto di fare uno spot. Uno nuovo. Male, burro e rock and roll. Vuoi dire che per una volta il prodotto è migliore di quello che dicevate in pubblicità? Ti piace tutto questo, eh? Mi piace invitare la gente a sorridere.